con Tommaso Colombo del Parco Nord Milano per parlare della tredicesima edizione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre 2019. Tommaso, ben trovato. Ben trovato a voi e a tutti gli radioascoltatori. Ci racconti di questo festival? Sì, è la tredicesima edizione, un festival importante. Come ogni anno contaminiamo la città di Milano con questo happening che in realtà parla molti linguaggi, dalle camminate naturalistiche, gli incontri, gli aperitivi ovviamente, i laboratori per i bambini, i mercatini, teatro e cinema. Diciamo, il tema del linguaggio è un po' la caratteristica del festival, non si parla di natura e di biodiversità in una sola maniera, ma in tante maniere, tutti e cinque i sensi sono coinvolti. E un po' perché ogni anno aderiamo a un tema, quest'anno il tema è l'anno internazionale proclamato dall'ONU delle lingue indigene, e allora ci siamo un po' interrogati tra che cosa significa parlare diverse lingue, soprattutto delle popolazioni che vivono a contatto con la natura. Ecco, allora questo mix ci ha fatto fare un programma importante, 120 eventi, sono veramente tanti, 12 giorni dura il festival, dal 12 al 24. Non è solo il Parco Nord l'attore, c'è anche il Museo Interattivo del Cinema, altri soggetti, Slow Food, il Comune di Milano con Villa Lonati, Le Ferre, insomma tanti luoghi dove riscoprire la natura e il nostro rapporto che abbiamo con lei. Dicevi un festival multidisciplinare, come saranno articolate le giornate? Iniziamo giovedì 12 con un importante incontro, festa, inaugurazione a Villa Lonata, scusami, a Villa Torretta, una bellissima villa del Cinquecento, per chi non la conosce, all'interno del parco, dove c'è un auditorium, un grand hotel, è uno dei luoghi simbolo del Parco Nord. Lì ci interrogheremo sul tema che ti dicevo, faremo un po' di riflessioni. Ci saluteremo, vedremo qualche video e foto delle passate edizioni e insieme gusteremo il risotto giallo Milano, che è un risotto pluripremiato dello chef Nessa del ristorante che c'è lì. Ecco, un momento di serio, di riflessione, ma anche di incontro, di scambio e di festa, insomma. Proseguiamo il venerdì qui in Cascina Centro Parco, dove avremo un happy hour. Venerdì, sabato e domenica abbiamo sempre la ristorazione qui in Cascina con Doman Party Food Design, un nuovo fornitore molto accurato con materie prime di alta qualità. Quindi un invito anche solo per gustarsi un drink, venire in Cascina del Parco Nord Milano. Proseguiamo appunto con due iniziative il venerdì. Da un lato inviteremo i cittadini a fare una particolare siepe all'interno del parco, quindi fare, anche fare e non solo parlare. Dall'altro avremo, dopo l'ora dell'aperitivo, alle 19:30, uno spettacolo teatrale in Gramelot, cioè una lingua universale, quella che Dario Fo aveva un po' inventato, diciamo, nei suoi spettacoli, quindi Mistero Buffo, il maestro lo faceva in questa lingua strana nata dall'incrocio dei girovaghi nell'Europa medievale, in questo caso viene riproposto con un bel mix di dialetti italiani, in particolare in sardo, perché l'attrice e regista è sarda e quindi avremo questa simpatica così riflessione su come i dialetti fanno parte dell'identità della nostra nazione. E poi c'è sabato e domenica, ecco, la struttura del festival prevede questo sostanzialmente, le sere durante i giorni feriali e sabato e domenica, a tempo permettendo ovviamente, dalla mattina fino alla sera, un continuo alternarsi di spettacoli, come ti dicevo, qui al parco e non solo, laboratori, momenti di incontro e anche mercatini, camminate, insomma, tutto uno dietro l'altro. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sì, e allora specifichiamo che gli eventi sono quasi tutti liberi, a libera partecipazione, il festival si può visitare senza un biglietto d'ingresso, ci sono alcuni spettacoli a pagamento, 5 euro o 10 euro, quindi dei prezzi molto, molto contenuti, quindi solo che appunto l'invito è di andare a vedere il programma del festival e prenotarsi su quelle laboratori o workshop o spettacoli che hanno il numero chiuso. Quindi diciamo di affrettarsi. www.festivalbiodiversità.it è il sito, quindi lì c'è tutto il programma già attivo da adesso, quindi no problem, andate, cliccate, iscrivetevi. Vi aspettiamo. Qualche segnalazione? Beh, diciamo, ripeto, il teatro la fa un po' da padrone, è un teatro non da palcoscenico, ma un teatro nella natura e che parla di natura. Quindi, ad esempio, il primo sabato 14 abbiamo Zanna Bianca, che è questo bellissimo romanzo di Jack London che tutti conosciamo e amiamo, trasposto da Giuseppe D'Elia, un attore straordinario. Così come il giorno dopo abbiamo Antonio Catalano, un altro attore molto diverso, ma altrettanto straordinario, ha lavorato al Piccolo, che porta quattro passi per sgranchirsi l'anima, dice il titolo del suo spettacolo, e ci porterà in giro a scoprirci, a stupirci di tanti particolari. Così come il weekend successivo, dal punto di vista spettacolare, abbiamo la lunga notte bianca, diciamo, perché abbiamo prima, nel pomeriggio di sabato 21, abbiamo Faber Theater, per cui questa narrazione importante sui migranti e sulle migrazioni delle popolazioni native non. Poi abbiamo i miti di stelle, quindi i linguaggi delle stelle, della cosmologia, alle 21 con Otias Teatro Natura. E poi abbiamo lo Sleeping Concert, dalle 23 partirà Yuri Kamisaska, musicista di fama internazionale, ha lavorato molto con Battiato, Monaco Benedettino, che per la prima ora e mezza ci intrattiene con le sue musiche. Poi, per chi ha voglia, si porta il sacco a pelo e il materassino. Si dorme qui in cascina sotto un porticato con gli antenisti che ci accompagnano nel sonno. Quindi lo Sleeping Concert è una grande avventura che inizia la sera e termina all'alba. Una particolarità davvero interessante per una città di Milano che magari pensiamo più ad altri ritmi. Ecco. Tredicesima edizione del Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano, dal 12 al 24 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Tommaso Colombo. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Certo, grazie mille.